Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Buonasera a tutti, benvenuti nelle frequenze di Blu Radio Veneto. Questo è Rock Wave nella versione live. Buonasera a tutti da parte di Flavio Bilato, da chi conduce assieme a me la trasmissione, Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, oggi è il 12-12-12, quindi tre numeri 12 che si inseguono per fare un totale di 36. Correggimi se sbaglio Maurizio. Perfetto. Allora, questa è una serata davvero particolare, sono le 22:05 minuti. Noi abbiamo due ospiti importanti che sono venuti a trovarci per presentare il nuovo lavoro che hanno sottoscritto insieme, il nuovo album che ci vogliono presentare questa sera si intitola Però Quasi, e noi diamo il benvenuto a Free Cantoni e a Ale Mostacci. Buonasera! Buonasera a voi, ciao. Bentrovati! Vi è piaciuta la sigletta che vi abbiamo presentato per l'inizio? No, è venuta bene, eravamo ancora in fase rockettara. Sì, sì, sì, assolutamente sì. Grazie. Non era previsto, diceste no, ci fa schifo, però no, grazie. Diciamo che no, ci stiamo attenendo scrupolosamente al copione, dobbiamo, esatto, essere bravi, dobbiamo essere forti. Dobbiamo essere convincenti, assolutamente, esatto, lo saremo in questa serata. Positivi. Assolutamente positivi e sempre un passo avanti, come direbbe chi si interessa di avanguardia, come, yes, ad esempio Free Cantoni. Roberto, allora, grazie. Questa avanguardia è dal 1977 che ne stai parlando, o quasi. Sì, molto giusto. Grazie per questa contestualizzazione perfetta, molto coerente, molto perfetta. Ti ringrazio per smentire tutto quello che hai detto, scherzo, per, sì, confermare tutto quello che hai detto. Devo solo rettificare, in effetti, no, hai detto bene, è dal 77 ufficialmente, ma da molto prima che il mio gruppo rock di riferimento, gli Schiantos, di cui non farò il nome, comunque gli Schiantos, di cui non ripeterò il nome, comunque gli Schiantos, hanno iniziato ufficialmente. In realtà cominciarono a rompere le scatole dal 1975, le prime prove in cantina, nella mia cantina per la gioia dei condomini. Cantina rigorosamente con la K, con la K, sì. La cantina con la K, molto giusto, ti vedo preparato. Assolutamente, è la cosa, sì. È la cosa mi lusinga. E devo dire che iniziamo nel 75, però in effetti il primo disco è del novembre 77 ed è inascoltabile o inascoltable. Sì, perché in effetti non l'ascolteremo questa sera. Infatti, perché appunto è inascoltabile, noi fedeli al titolo eviteremo di sentirlo, anche perché noi dopo 35 anni, e noi parlo anche a nome della pianista classica che si è convertita al rock, che è qui con me stasera, abbiamo deciso di, dopo 35 anni di Schiantos, di dar vita ad un nuovo progetto. E che schianto, anche nuovo progetto? Il nuovo progetto cerca di esprimere, io credo, le stesse cose degli Schiantos, ma in una maniera, io credo, più matura, più evoluta in qualche modo, perché il rock fa sempre parte del nostro DNA, ma c'è l'aggiunta del classico. Quindi il nuovo progetto, che va sotto il nome di Fricale, ovvero Fricche Alessandra Mostacci, e cioè la Free Cantoni Band, devo dire che tenta di coniugare, tenta di far sposare, di innestare sulla musica rock il genere classico, perché la parte del leone la fa appunto la musicista compositrice, la vera musicista del duo, che è Alessandra Mostacci, che è una pianista classica, sì, che tra l'altro mi sta aiutando molto per quanto riguarda le prime nozioni di armonia, di melodia e anche certi esercizi di intonazione, perché lei ha sempre accompagnato delle soprano liriche in giro per il mondo, quindi così se ne intende anche di canto, e mi ha aiutato un pochino a progredire nella direzione del canto. Questo mi ha detto che sei il suo tenore preferito. Sì, sì, si è sforzata di dirlo, io sì, non sì. so se la cosa risponda pienamente a verità dal punto di vista musicale, però insomma crescendo o invecchiando a seconda dei punti di vista, sì. Io così ho avuto delle strane voglie, per esempio quella di migliorarmi, quello di migliorare le mie conoscenze, sempre nel mio piccolo naturalmente, senza allargarsi troppo, però mi piaceva conoscere qualcosa d'altro e ho approfittato delle conoscenze della pianista classica per imparare qualcosina sull'intonazione, sulla melodia e sull'armonia. Pertanto, sì. No, dicevo che il progetto appunto cerca di coniugare il rock, certo hard rock con punte di heavy metal, al classico, alla musica classica. Nella Freak Anthony Band ci sono tre maschietti e tre femminucce, cioè tre musicisti di sesso maschile e tre musiciste. E la cosa ci piace non solo per una questione di coerenza sulle quote rosa, ma anche perché abbiamo trovato una bassista, dopo varie ricerche, fenomenale, che è Lisa Minari, che se non sbaglio aveva suonato con un gruppo che girava dappertutto, certi nomadi esatto, i nomadi, che così hanno sempre stentato a trovare una loro casa per vocazione, nomen omen, come si dice, cioè, sì. Per rispettare anche le premesse del titolo, del loro nome. Ed è molto brava, è stata quasi 10 anni con i nomadi dal vivo, i nomadi live, usavano Elisa Minari al basso, è una bassista di eccezionale bravura, molto preparata. E poi abbiamo una corista giovane, bellissima, che si chiama Buconi è la figlia, Sofia Buconi è la figlia di un violinista bolognese che ha fatto X Factor ed è oltre che molto brava è anche molto bella. E poi Alessandro Mostacci alle tastiere, alla composizione. E io sono un filo orgoglione, molto orgoglioso di avere queste quote rosa, che veramente danno una spinta in più al gruppo. Naturalmente sono innominabili in questa sede i commenti che fa il pubblico, sì? Quando vede la quota rosa. Però devo dire che anche questa cosa aiuta molto, ma soprattutto io devo essere veramente sincero qui ai microfoni di Blu Radio Veneto, e devo dire che ho cercato, insieme alla Mostacci, ad Alessandro Mostacci, di porre fine a quello che era, come dire, la nota dolente, trattandosi di musica, la nota dolente degli Schiantos, e cioè per 35 anni, durante tutta la storia, se vogliamo osare dirlo, per tutta la carriera degli Schiantos, ci hanno sempre detto: ah sì, voi siete simpatici, avete dei testi anche intelligenti, però non sapete suonare, siete tecnicamente molto scarsi e scadenti. E allora per ripicca, no, ma soprattutto per crescere e per porre fine a questo luogo comune, il nuovo gruppo credo sia inappuntabile dal punto di vista tecnico, o perlomeno voi fate finta di crederci, ma è così davvero, perché è andata avanti la ricerca, è andata avanti il tentativo di migliorarsi, e anche lo stile è cambiato, nel senso che l'ironia rimane il mio cavallo di battaglia, l'umorismo io credo sia importante, io amo la comicità perché trovo che sia una forma di resistenza umana, psicologica, a tutte le depressioni, le fatiche, le tristezze della vita. Per citare un modello alto, non so, Woody Allen, ecco, quando vediamo un film di Woody Allen e lui è l'eterno sconfitto, è il perenne perdente, però con una battuta riesce ad esorcizzare, a superare tutte le sfortune che gli capitano, tutte le difficoltà della nostra vita, e sappiamo che l'esistenza spesso è crudele, colpisce basso sotto la cintura, però l'umorismo, la comicità ci dà una mano a vivere meglio. Non è sempre possibile ridere nella vita, ci sono disgrazie che vanno al di là dell'uso della comicità, però se si riesce in qualche modo a mettere in moto l'umorismo, ecco che rimaniamo meglio, cioè siamo un po' sollevati dalla pesantezza della vita. Dunque manteniamo questa ironia nella Freak Anthony Band, ma un'ironia un po' meno pugno nello stomaco alla punk, alla come spianto, avevi cominciato, insomma. Avevi cominciato alla punk, assolutamente, esatto, 1977, esatto. Talking Heads, il disco famoso. Sì, esatto, era quello, addirittura ancora un po' prima, insisto, nel 75, quando proprio il punk era in piena esplosione, laddove contava più la comunicazione più che la perfezione tecnica. I tempi sono cambiati, ma direi che non per un'adesione ai tempi cambiati, ma per un bisogno nostro di maturare, di andare avanti. Direi che stiamo anche più attenti a livello tecnico. E riuscire a convincere Alessandra alla tematica rock, com'è stato, Frick? Ma dunque, lei è un musicista, è musicista che proviene da una famiglia di musicisti classici. Il padre era un pianista concertista che poi vinse il concorso per insegnare pianoforte al Conservatorio di Bologna e per 40 anni ha insegnato al Conservatorio di Bologna. Il fratello è un violoncellista che attualmente insegna al Conservatorio sempre G.B. Martini di Bologna, quello dove tentò di iscriversi, al quale poi fu ammesso anche Wolfgang Amadeo Mozart, ed è dedicato all'abate Martini, che come sapete era un grande musicologo. E quando Mozart, piccola nota, piccola parentesi amena, quando Mozart tentò di iscriversi, gli dettero come compiti in classe, come si diceva una volta, come tema da svolgere, i canoni della musica barocca, anzi no, se non sbaglio, erano i canoni del canto gregoriano. Naturalmente Mozart non ne sapeva mezza, come usa dire a Bologna, città dalla quale proveniamo e dalla quale vi salutiamo, si dice l'orgogliosa e allegra capitale della Fellazio, ma sì, questo sì, non no, va bene dirlo. L'abbiamo capito. L'abbiamo capito. E che dire, ma tanto siamo tutti adulti e sappiamo che i bambini quella cosa ne lì, sanno sì. più di noi. No, certo. I bambini ne sanno molto più di noi. Assolutamente. E comunque è assodato che anche il piacere fisico fa parte dell'umana natura e quindi non c'è nulla di peccaminoso e di sbagliato, secondo me. E ad ogni modo, in quel di Bologna, e Mozart tentò di sostenere questo esame. Gli dettero da sviluppare i canoni del canto gregoriano. Lui non ne sapeva nulla, ma nemmeno mezza informazione aveva al riguardo, tanto che sbagliò il compito. L'abate Martini, a cui poi fu dedicato il conservatorio, ma anche perché era, soprattutto perché era un grande musicologo famoso in tutta Europa ai suoi tempi, rendendosi conto del genio di Mozart, rendendosi conto che per Mozart, che era diciamo un punk, un rockettaro, chiedergli di sviluppare un tema del genere era come chiedere a un rockettaro di parlare del liscio, no? della musica folk italiana, del liscio. E quindi gli corresse il compito, glielo sostituì con quello fatto da lui, svolto dall'abate Martini, giusto, e così Mozart venne ammesso all'Accademia. E naturalmente ci piace considerare Mozart come un punk ante litteram, proprio perché Mozart era un grande comunicatore, oltre che un gigantesco musicista. E quando la comunicazione, quando l'arte si unisce alla voglia di comunicare, di esprimersi, abbiamo veramente la perfezione che Mozart ha sviluppato. Ovviamente tutto questo non ha nulla a che vedere con la Freak Anthony Band, che è molto molto, ma più molto più modesta, ma più molto, più tanto modesta, se mi passate l'espressione. Però l'idea era questa. E allora nell'ambito della famiglia della Mostacci, il fratello insegna al Conservatorio di Bologna, l'altro fratello è violinista, chitarrista, la mamma è una pianista dilettante, lei di nascosto ascoltava da bambina, da ragazzina, sì, heavy metal e hard rock, per cui è cresciuta con questa informazione, con questo DNA che le appartiene anche sul rock. per questo riusciamo così bene a combinare. Io che sono un naif assoluto, lei che invece è una musicista formata, di formazione, sì, classica, autentica, e riusciamo a mettere insieme le energie, e forse dalla spontaneità e dall'intuizione alla pratica musicale seria può nascere qualcosa di incredibile. Allora, no? Vediamo come funziona questa sinergia. Non hai parlato dei maschietti della band, sono delle femmine. Magari ne parliamo dopo. Allora, magari direi, ne parli tu dei maschietti. Visto che abbiamo fondato su questa sinergia che c'è tra Ale Mostaccio, come la chiami tu, Freak Mostacciova, no? in alcuni episodi russi, diciamo. Sì, no, perché ha avuto numerosi insegnanti russi, sì, tra cui la Yablonskaya, di cui io non sapevo niente, ma che frequentandola pare che sia una delle più grandi musiciste pianiste del globo, che insegna alla Gillard School di New York. Sbaglio. Bene, allora abbiamo il piano pronto già per ascoltare un qualcosa che comunque non riguarda Però Quasi, perché per Però Quasi c'è più tardi un po' di tempo. Allora, cosa ci ascoltiamo? Se non sbaglio, diamo spazio subito a un mezzo di locomozione importante. Sì, vorremmo fare un esperimento, perché l'avanguardia ci piace, ci appartiene, perché l'avanguardia rischia, e questo senso del rischio noi lo condividiamo. Occorre rischiare per andare avanti davvero, e vorremmo proporvi un pezzo rischio, di grande rischio, fatto di una poesia e di una parte musicale che cita Erik Satie, il grande Erik Satie, che secondo alcuni è il fondatore, comunque il padre della musica contemporanea. È dedicato al camionista che c'è in ognuno di noi, compresa le signore e signorine, alla camionista che c'è in ciascuno di noi. Nel fondo di ogni essere umano c'è un angolino che dà spazio al camionista. Spostati! Cosa fai con quella macchina, imbecille, cretino? Vai via, spostati! Ecco, entrando in quella scatola maledetta che si chiama automobile, tutti noi diventiamo un po' camionisti, con tutto il rispetto per gli autotrasportatori, perché li viviamo dentro di noi. Al camionista, all'autotrasportatore che c'è in ognuno di noi, dedichiamo Furgoncino, canto d'amore di un autotrasportatore. Non riuscisti a schivare quel rospo sulla via nazionale, ma eri accogliente, capace, sicuro. Benzina non ne consumavi niente, e sapevi capire in autostrada l'arroganza notturna dei camion. Il tuo incedere elegante nella nebbia ti faceva cittadino del Bolshoi. Dell'autostrada eri l'arachnide e lo stratega che l'ingenuo semaforo trascende con noncurante ripresa. Ah, Furgoncino, cometa del traffico, capofila delle avanguardie turistiche, Majakowski del sorpasso, caravella che salpi ogni giorno verso ignote Giamaiche. Tu, o Furgoncino, l'avresti anche evitata quella mucca che traversava ignara sopra pensiero, distratta la via nazionale, ma un destino onnipossente e malvagio con sé l'ha voluta. Oh furgoncino, ape cross country 500 cc. Cometa del traffico, capofila delle avanguardie turistiche, Majakowski del sorpasso, tu, oh furgoncino, li avresti anche evitati quel rospo e quel bovino che traversavano la via nazionale, ma un destino prepotente con sé li ha voluti. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. All'interno della programmazione di Blu Radio Veneto, Rock Wave nella versione live, assieme a due ospiti d'eccezione, Free Cantoni e Ale Mostacci, per la presentazione del loro ultimo lavoro. Si intitola Però Quasi, ma intanto lo stiamo andando a, così, a vedere in altri lavori com'era la situazione, diciamo, dell'insieme tra quello che è l'ironico e quello che è il contemporaneo, che nell'insieme diventa appunto ironico contemporaneo. In questo caso abbiamo ascoltato questo brano eseguito dal vivo dal maestro Free Cantoni assieme ad Ale Mostacci, un testo da Ironi Contemporaneo del 2004, se non erro, Roberto. Giusto. Giustissimo. Furgoncino, canto d'amore di un autotrasportatore. Ecco, adesso ho visto Ale spostarsi un attimo, avrei voluto chiederle qualcosa riguardo appunto alla musica contemporanea, ma continuiamo a parlare con te, Roberto, che perdona l'interruzione, scusami, ma eravamo rimasti, se non sbaglio, sì, ai maschietti, sì, alla parte band maschile, sì, certo, della Free Cantoni Band. Che salutiamo. Sì. Che salutiamo la parte maschile, ahimè, io qua chiedo la vostra complicità, maschietti nello studio e in ascolto, perché ultimamente le cose, diciamo, sembrano pendere dall'altra parte. Noi dobbiamo assolutamente riconquistare, sto scherzando, il terreno perso, stavo per dire, e qui ci sono tutte le signore, signorine, ragazze, ragazzine in ascolto che mi vorranno schiaffeggiare, io scherzavo, in attesa che torni la Mostacci e parli lei del, visto che ho parlato della quota femminile, della, sì, quota rosa del gruppo, ci esponga lei. Nell'attesa io vi parlerò della parte maschile della Free Cantoni Band, che è costituita da Max Cotafavi alla chitarra. Max Cotafavi è il chitarrista dei Clandestino, ex Ligabue. Abbiamo avuto anche come complice un suo insegnante, maestro, ma anche collega, che per un certo periodo ha suonato con noi, quando l'estate scorsa Max Cotafavi appunto è dovuto spostarsi sul progetto Ligabue Campovolo. Noi abbiamo avuto Ricky Portera per un certo periodo. È stato molto interessante lavorare anche con Ricky Portera, che e devo dire è un grandissimo solista, mentre Max Cotafavi è un, più un chitarrista da band, e sa in qualche modo, è abituato a lavorare nell'equipe, mentre, mentre Ricky Portera è un solista eccezionale, ma più one man band, più come dire, più da solista che da così da chitarrista più di gruppo. Virtuoso. Sì, il virtuoso. Esatto. Allora abbiamo citato le tre parti maschili, volevamo mancano, scusa, sì. manca il batterista sì. Alberto Pavesi. Alberto Pavesi è il batterista di Gloria Gaynor nelle tournée italiane ed europee. È un virtuoso della batteria, ma anche lui molto adatto a suonare, molto abituato a suonare in gruppo, ad amalgamarsi nella band, perché questa è una differenza importante. Ci sono musicisti bravissimi, ma è come per l'insegnamento, no? Musicisti bravissimi che però non riescono a comunicare all'allievo, ad insegnare, così come ci sono musicisti bravissimi più portati ad essere grandi solisti che uomini di gruppo. Pavesi anche, è un uomo di gruppo pur essendo un Max virtuoso della Elisa batteria. Max, Elisa e Alberto suonano insieme da anni, quindi sono anche affiatati. Sì, c'è una bella amalgama, come si dice. E il cantante della African Tony Band è Sofia Bucconi. Sofia Bucconi, esatto. La bella e brava Sofia Bucconi, che mandato via Fricantoni. Sì, che sta cercando di rimpiazzare Fricantoni, che non si sopporta oramai più perché fa il nel pollaio. Fa il galletto. Vabbè, allora Fricantoni, Ale Mostacci. Ale, una domanda anche per te. Abbiamo sentito adesso quella che è stata la canzone di Furgoncino, sì, dove c'era questa voce recitante, questo racconto che fino in fine ci ha lasciato col fiato sospeso, e poi invece i tuoi giochi di piano, un gioco di piano che viene diciamo chiamato anche musica contemporanea. Sì. Musica contemporanea che è viene dalla musica classica, però si sofferma molto di più su quello che è l'argomento romantico della stessa, anche un po' di ricerca continua della sì. musica. Di romantico c'è poco, la musica contemporanea sì. è più d'effetto, mentre ancora Erik Satie era molto melodico. Erik Satie, ricordiamo, è un compositore, un pianista francese, tra le altre cose non era neanche ben voluto all'interno dei vari conservatori dove aveva provato a fare alcuni provini, sì, e quindi ha dovuto approfittarne diversamente di quella che era la sua passione pianistica. Poi per chi vorrà... Sì, perché forse sì. era troppo moderno per l'epoca, sì. per l'Ottocento. E quindi chi vorrà approfondire anche qualcosa di Erik Satie potrà andare ad ascoltare anche le Gnossien oppure sì. le Gymnopédie. La Gymnopédie prima è il pezzo che abbiamo suonato con Furgoncino. Invece con la poesia Haiku della sfortuna abbiamo la prima Gnossien. Poi ascolteremo anche Haiku della fortuna. Dopo. Intanto allora direi ascoltarci qualcosa dal vostro ultimo lavoro, sì. però quasi, dando spazio alla canzone con il featuring di Luca Carboni. E sì. poi torniamo qui a commentarla insieme. Ok. Meraviglia golosa, più dolce di te non è possibile, però quasi. Baciami, fammi passeggiare sulla porcellana dei tuoi denti. Regalami tutti i tuoi sospiri di piacere quando facciamo l'amore. Quando facciamo l'amore, baciami, fammi passeggiare sulla porcellana dei tuoi denti. Regalami tutti i tuoi lamenti di piacere. Quando facciamo l'amore, quando facciamo l'amore. Un bolide fiammante, una moto velocissima, più formosa di te non è possibile, però quasi. Ho sognato di fare l'amore con Ivana Facalot, più calda di te non è possibile, però quasi. Baciami, fammi passeggiare sulla porcellana dei tuoi denti. Regalami tutti i tuoi sospiri di piacere quando facciamo l'amore, quando facciamo l'amore. Baciami, fammi passeggiare sulla porcellana dei tuoi denti. Regalami tutte le tue fusa di piacere quando facciamo l'amore, quando facciamo l'amore. Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Ancora buonasera a tutti e benvenuti nella nostra frequenza, questa è Blu Radio Veneto. Ricordiamo che oltre alle frequenze classiche in FM, la radio è ascoltabile anche tramite il nostro sito internet bluradioveneto.it. E in questa serata del 12 dicembre 2012 abbiamo con noi Free Cantoni alle Mostacci per presentarci il nuovo lavoro che si intitola Però Quasi, e abbiamo ascoltato anche questa traccia con il featuring di Luca Carboni. Allora, il Però Quasi, come è nato? Nell'insieme, ma, Freak. Però quasi, secondo me riproduce bene, a partire dal titolo, ma è solo la mia impressione, che mi sembra che riproduca bene l'atmosfera così incerta dei nostri tempi contemporanei. È una canzone che nasce da due poesie di un poeta marchigiano che io ho provato a sistemare allungando certe cose, tagliandone altre e rendendola metricamente cantabile come canzone pop rock, insomma. Ma il grosso naturalmente l'ha fatto Alessandra Mostacci con la sua composizione, cioè la musica è tutta di Alessandra, e secondo me è interessante. È interessante questa canzone perché rappresenta anche un po' in sintesi, riassume un pochino tutto il nuovo progetto dopo 35 anni di Schiantos. Perché continuare a fare il demenziale e non provare a fare cose nuove? Queste cose nuove sono rappresentate bene, secondo me, da questa canzone Però Quasi, senza abiurare il rock, perché ce ne sono altre nella, nel disco e nella esperienza dell'African Tony Band che sono molto più rockettare, anzi sfiorano, passando per l'hard rock, sfiorano l'heavy metal. Però questa canzone ci è venuta un po' più sul versante pop, devo dire, e ci hanno lusingato, nel senso che diversi amici, colleghi musicisti hanno detto: accidenti, questa è una canzone perfetta, sarebbe perfetta per il Festival di Sanremo, per il Festival della Canzone di Sanremo. Allora, nessuno è perfetto, anche noi ci siamo cascati, questa è una scivolata, perché insomma non so se Sanremo sia proprio la nostra la cornice giusta per noi, proprio il nostro habitat, il nostro punto di riferimento, però la lusinga era tale per cui ci abbiamo provato. Però quasi. È andata abbastanza bene, però quasi abbiamo fatto palo, nel senso che Gianni Morandi, che in qualche modo rappresentava il pensiero del dottor Mazzi, e che in qualche maniera è riuscito a vedere anche in centro a Bologna. Sì, infatti. Sì? È vero, è verissimo, posso confermarlo. Ha detto: Frick, tu sei un artista interessante, ma di nicchia, e quindi dovresti venire accompagnato da qualcuno di molto più famoso di te. Sì, lascio a voi il commento sulla delicatezza della cosa. Sì. Comunque dovresti venire con qualcuno molto più famoso di te, molto più visto in televisione. E allora è partita, scusate, è una scivolata, ci siamo cascati in pieno, è partita la ricerca mia e di Alessandra di un personaggio televisivo. Quindi abbiamo chiesto a Luca Carboni, che ha detto: la canzone è bellissima, però io non vengo a Sanremo per ragioni mie, di cabala personale, poi se volete ve la racconto, ma non so, forse appartiene alla sfera del privato. Ad ogni modo, la cosa è, la canzone piacque molto a Biagio Antonacci, mi riferisco al Sanremo già passato, quello del 2012, sì, non al nuovo che sta arrivando con Fazio, che sarà presentato da Fabio Fazio, ma quello dell'anno scorso con Gianni Morandi. E appunto credo il cognato, l'ex cognato di Gianni Morandi, Biagio Antonacci, attualmente ex cognato di Gianni Morandi, apprezzò tantissimo, come Luca Carboni, anche Biagio Antonacci apprezzò la canzone, telefonò all'ex cognato dicendogli: accidenti, Frick e l'Alessandra hanno una canzone adattissima a Sanremo, perché non li prendi? Ma sì, Frick però è di nicchia, non è, perché non vieni tu, Biagio, con lui? E Biagio ha detto: no, io in quella bolgia infernale che è Sanremo non ci metto più piede. Allora noi abbiamo proposto Dario Vergassola, ma non andava bene, scusa ufficiale, perché non era proprio un cantante professionale, nel senso che è più un comico, un cabarettista, ma pochi forse sanno che Dario Vergassola all'inizio della carriera, come Iachetti per esempio, come Enzo Iachetti, aveva un sacco di canzoni ironiche, comiche, che presentava nelle sue pièce teatrali, nel suo cabaret. E comunque non andava bene. Abbiamo presentato il nome di Serena Autieri, che ha una bellissima voce e si vede subito che ha una gran bella voce, però sì, non era abbastanza conosciuta, secondo il commento di Gio Squillo. Iskra Menarini, storica corista, cantante di Lucio Dalla. Insomma, non abbiamo Bonocore. Ci sembra, anche lui ha apprezzato molto, anzi lo salutiamo perché è stato veramente fraterno. La canzone è bellissima, prodigo di complimenti, questa però quasi è veramente una grande canzone, adattissima al festival, però Bonocore non andava bene. Il dottor Mazzi e il signor Gianni Morandi volevano qualcosa di più, alla fine non è saltato fuori questo plus valore che loro pretendevano. per cui non se ne è fatto niente. Ripeto, forse abbiamo fatto palo, perché anche loro poi hanno riconosciuto che la canzone era adatta, ma mancava il personaggio televisivo. Del resto al dottor Mazzi credo sia sfuggito alla battuta, preferisco il nostro ex principe o principe mancato al più bravo dei cantanti, perché il principe di Casa Savoia è comunque un personaggio molto visto in televisione, e quindi lo preferisco a qualsiasi bravo cantante misconosciuto. Questa è stata secondo me una scivolata, perché si trattava e si tratta sempre della vetrina della musica italiana, però tant'è. E così. Ma secondo te, volevo sapere Frick, Sanremo può essere considerato il signore dei dischi, come tu cantavi qualche tempo fa? Guarda, noi l'abbiamo, devo essere completamente sincero, lo abbiamo tentato, una partecipazione al festival, abbiamo provato a parteciparvi per questioni meramente di convenienza tecnica, nel senso che poi è una vetrina importante, lo vedono un sacco di milioni di telespettatori, e quindi può in qualche modo abbreviarti la fatica dei concerti dal vivo, può essere una scorciatoia interessante, perlomeno ti fa risparmiare tempo, nel senso che poi la gente ti vede e ti riconosce ovunque. Siamo un popolo teledipendente, e dunque il Festival di Sanremo ha i suoi vantaggi. Dal punto di vista dei contenuti e della qualità, ogni anno è una delusione il Festival di Sanremo, perché dovrebbe essere davvero una vetrina delle nuove tendenze della musica italiana, e invece poi si rispettano sempre queste regole dello show business che fanno un pochino di cui siamo un po' stanchi, ecco. Ritornando all'arrangiamento che ha fatto Alessandra del pezzo, secondo me era un arrangiamento adattissimo alla voce di Luca Carboni, è proprio l'hai costruita assolutamente per lui, pezzo sì, che poteva essere scritto da Luca Carboni al 100%. Infatti a lui è piaciuto molto ed è venuto a fare le presentazioni con noi in diversi posti. Sì, è stato cantarla molto in serio. Duetto con Frick è stato carino, molto carino. Sì, proprio, perfetto, era proprio perfetto. Un singolo che sicuramente entrava in classifica, sì, assolutamente, perché era adattissimo, accattivante. Beh, la melodia anche che entrare, ancora entrarci. Esattamente, non si sa mai. Beh, vero, per esempio, se Blue Radio Veneto ci desse quella spintina che ci manca, ma fate conto che abbia parlato da sonnambulo, sì, senza rendermi conto di quello che ho detto. Adesso sono qua in ginocchio, no, ti prego, noi, la nostra Radio Veneto, la nostra aiutaci. Parte la diamo, Frick, la no, nostra sempre, parte la diamo. No, ma grazie, sì, lo dico sempre con una certa dignità, ma vi prego, sì. Blue Radio Veneto. Portate un fazzoletto. Allora, direi potremmo ascoltare ancora un pezzo, pezzo a richiesta, inserendo una monetina, esatto, chiederei. Ma allora mettiamo quella fatta con J-Ax, perché non citare anche J-Ax, certo, il quale ho scoperto essere un vecchio fan degli Schiantos, poi ha sentito la nuova produzione e ha detto, beh, molto più interessante questa roba nuova, ma perché non facciamo una cosa assieme? Poi si è messo a telefonarmi, continuamente insisteva, ho pensato anche di denunciarlo per stalking, scherzo, è successo sì, il contrario naturalmente, no, è successo che ci siamo piaciuti, artisticamente parlando, ma anche così, insomma, come persone, non solo perché siamo due uomini bellissimi, no? Ma anche perché due sex symbol praticamente, scherzo naturalmente sempre, sto facendo il mio numero da scemo, da circo scemo, e devo dire, no, che ci siamo piaciuti artisticamente. Lui ci ha confessato e confidato, come si potrebbe dire, confessato, confissato di aver sempre amato suonato gli Schiantos e dunque la canzone Gelati è venuta spontanea come terreno d'incontro, e tanto che poi da Gelati si è trasformati in Gelati Sono Buoni, riconoscendo tutti il rap, il lavoro di testo che lui ha fatto e anche la sua parte cantata. Il rap, cioè il testo che lui ha rappato, è interessante perché nasconde un sacco di metafore, di doppi, tripli, quadrupli significati qua e là, cioè tra le pieghe del discorso ci sono diverse allusioni anche molto interessanti secondo noi, e quindi ne abbiamo fatto una nuova versione ridepositata e diventati Gelati Sono Buoni. Nel CD che presentiamo, che ha 5 brani, corrisponde al vecchio Extended Playing, l'EP, quello che era l'EP che aveva 4, a volte 5 brani, soprattutto 4 di solito, ma anche 5, e in questo caso il CD ne ha 5. C'è anche Laura Bono, cantante giovane, conosciuta proprio per la sua energia, per la sua disponibilità, per la sua voglia di farla. L'abbiamo conosciuta proprio mettendoci a parlare in una situazione musicale collettiva e ci è sembrata una ragazza molto interessante, ha una voce alla Gianna Nannini prima maniera, se così potente, posso dire, potente, voce molto potente. E se non ci fosse già il soprannome Duracell affibbiato alla Mostacci, lo avremmo senz'altro collegato con Laura Bono, insomma. Bene, poi allora ci ascoltiamo questo pezzo con J-Ax, Fricantoni alle Mostacci, J-Ax con I Gelati Sono Buoni qui a Blu Radio Veneto. Eh sì, 2012, Fricantoni, J-Ax, Zero Fricantoni, tutti a prendersi un gelato. Vai zio! La mia vita è nella fretta, la mia strada si è ristretta, la mia casa è una cantina, la mia vita è in officina, il lavoro a me mi stende e per giunta non mi rende. Per comprarmi una maglietta ho venduto la mia lambretta, quando prendo lo stipendio in gelati me lo spendo. I gelati sono buoni ma costano milioni. Un ghiacciolo al tamarindo vintage come la girella e Ringo, da bimbo capivo e distinguo distinto e non ho mai succhiato neanche un calippo. È colpa del sonno se di giorno dormo, siamo in Italia, la coppa è del nonno che ci ha rubato tutto il succo dalla granita. Che fatica restare giovani tutta la vita, la fatica mi deprime e mi tiene sulle spine, ma se vado fuori a cena prendo un gelato alla Marena. Il gelato è il mio conforto, mi ripaga ad ogni torto. Il gelato mi consola e fa dolce la mia gola. Quando arrivo a fine mese faccio il conto delle spese, il gelato ho speso tutto e rimango senza un letto. I gelati sono buoni ma costano milioni. I gelati sono buoni ma costano milioni. I gelati sono buoni ma costano milioni. I gelati sono buoni ma costano milioni. I gelati sono droga di massa, per la glassa c'è chi fa carte false, ma anche se porti una vacca in Alaska, quando la mungi non ti fa il fior di latte. La gelataia scollatura sul camice, colore verde non è menta né anice. Ecco il mio gelato e sto una favola, ho trovato l'Eldorado come piedone alla fragola. sostituire al sostantivo plurale gelati tutto ciò che si ama di più nella vita per avere l'esatto contenuto del testo. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ancora buonasera ai nostri carissimi ascoltatori, questa è Blu Radio Veneto all'interno di Rock Wave, l'onda del rock, questa versione dal vivo ancora con Flavio Belato, Maurizio Calzavara. Ricordiamo anche la nostra pagina Facebook, risponde al nome di Blu Radio Veneto Rock Wave, quindi mettete sempre di più il vostro mi piace. Ancora con Fricantoni alle mostacci, e abbiamo ascoltato un pezzo dal nuovo lavoro di Fricantoni alle mostacci, per l'appunto si intitola Però Quasi, questa volta con la voce rappata di J-Ax con I gelati sono buoni, come si diceva, questo rifacimento di una canzone che qualche tempo fa dava molta soddisfazione a quel gruppo di cui non faremo il nome, sono gli Schiantos, che è stato una canzone trascinante di tutta quella che è stata la carriera. Sì, un gruppo che è stato una pietra emiliana. Emiliana. Senti, posso dire una cosa? Posso dirla? Mi scappa, devo dire. Sai che quasi quasi in certi momenti questo pezzo mi è piaciuto quasi quanto l'altro, quasi, non proprio però quasi. Però hai presente quando dice "ma anche se porti una vacca in Alaska"? Quello è un passaggio fantastico. Passaggio fantastico. Ecco, una vacca in Alaska, quando la mungi non ti fa fiore di latte. Ecco, io lì mi sono veramente emozionato, mi si sono rizzati i peli, si può dire peli? Sì, i peli sì, sicuramente. I peli rizzato, rizzati. Sì, è anche un cognome, rizzati. Sì. Mi si è rizzato il pelo su. È venuta la pelle d'oca. La si pelle può dire. Esatto. No, no. Ah, la pelle d'oca? Ce l'ho. Abbiamo l'intera fattoria in questo, esatto, piccolo spazio angusto della radio. Siamo, esatto, riusciti ad inserire anche diciamo l'intera fattoria che normalmente viaggia in automobile assieme a Frick. Esatto. Vorrei farvi anche ascoltare il mio alter ego in quanto cantante. Sì. Un cane, esatto, è quello che i miei detrattori, vocabolo di natura vagamente agricola, sì, mi dicono, ma a volte qualcuno mi fa anche degli altri complimenti e mi dice che sono un vero gatto, adesso la Mostacci mi dice di contenermi, ma io mi scateno, vabbè. I'm a farmer. Hello. Yeah. Hello, hi, I'm a farmer. Hi, I'm a farmer. Bene, I'm a farmer. E così si continuerà. No, è una citazione, perché tra i musicisti contemporanei devo dire che noi apprezziamo molto John Cage, oltre che Ligeti, come grande compositore, tra l'altro era il musicista preferito per le colonne sonore di Stanley Kubrick, un ciclista che tutti quanti noi conosciamo e che ha lasciato capolavori quali Arance Meccaniche e 2001 di sé nello spazio o nello strazio, come chi dice, chi non ha sopportato la lunghezza del film. La colonna sonora però, che era bellissima. La colonna sonora che era comunque bellissima. Era di Ligeti. Esattamente. E poi ci piace John Cage per questa tutta... John Cage, dunque, come tutti i grandi geni, ha diviso i suoi critici in detrattori e sostenitori. I detrattori dicevano che lui sostanzialmente era un clown californiano. In realtà ha una solidissima preparazione accademica, John Cage, e nelle sue prime composizioni era molto classico, scriveva delle partiture di musica contemporanea, però diciamo all'interno di quel classicismo. Rispetto anche alle cose che dicevi tu prima, quando presentando il pezzo di Erik Satie dicevi, ecco, questa musica contemporanea sembra molto melodica, molto classica. In realtà anche John Cage ha avuto questi inizi ed è stato aveva John Cage in Erik Satie un grosso punto di riferimento, come Brian Eno ed altri compositori contemporanei, perché si può definire anche un compositore contemporaneo Brian Eno. Certamente. E dicevo che John Cage ci è piaciuto tantissimo anche per le sue provocazioni, per quest'aria molto, per aver introdotto questa alea, questa casualità, questa filosofia anche zen molto, molto importante nella musica. E abbiamo scoperto un suo brano del 1960 che è Music for Amplified Toys Piano, che sarebbe musica per strumenti, per pianoforti, giocattolo e altri giocattoli amplificati. Era il 1960, pensate a quanto avanti fosse questo compositore. 1960 vuol dire prima dei Beatles, dei Rolling Stones, prima della grande rivoluzione rock internazionale. Questo uomo faceva musica usando degli strumentini giocattoli, dei giocattoli, degli strumentini giocattolo. Quindi la cosa ci ha fatto effetto, insomma. No, constatare quanto lui fosse sperimentatore, e non è un caso che poi fosse molto preso in giro, fosse in qualche modo stuzzicato dal pubblico, fosse anche sbeffeggiato dal pubblico, perché questi esperimenti erano talmente avanti da essere troppo proiettati nel futuro, no? Un po' come adesso, senza esagerare, la African Tony Band, se posso dire in fondo, ma vedo gli infermieri che mi fanno un cenno e mi dicono di trattenermi. Facciamo sentire un pezzo della African Tony Band? Certo, sì, certo, facciamo sentire allora un pezzo della African Tony Band. Il tempo di sistemarlo all'interno del CD player. Quale pezzo consiglieresti? Che so, un filo di gas per esempio. Io metterei anche Sciare, che mi sembra dai. Perfetto. Quindi, perfetto. Numero 7, se non vado sbagliando. Quindi... Sai che quel pezzo è stato scritto con Pier Vittorio Tondelli? Dovresti esibire stupore, perplessità e grande ammirazione. Certo, certo, perché sappiamo, conosciamo chi è Pier Vittorio Tondelli. Facciamo un breve quadro, brevissimo, sì, uno scrittore un grande italiano sportivo che è mancato prematuramente all'età di 36 anni, sì. Ed era stato il precursore di quella che è stata la scena pulp italiana, no? E scrisse anche, tra le sue varie cose, anche una riduzione teatrale molto importante di quella che era il Piccolo Principe, e poi partecipò attivamente a quella che era la scrittura di una rivista che a quel tempo era all'avanguardia, si può dire, sì. Under 25 si chiama. Ti così. Vedo ferrato, ti sì, vedo sì, preparato. Sono bilato di cognome. Ti vedo. Sì. Benissimo. Allora, senti, ma sì, altri prego. Vogliamo, scusa, perché non citare altri libertini? Secondo me è un capolavoro assoluto. Nel senso che, insomma, tu hai parlato giustamente di scrittura e di letteratura pulp italiana. Mi sembra che quello rappresenti bene. È un libro ancora oggi, io credo, anche ai nostri tempi, insomma, godibilissimo, è un classico, se posso dire, è diventato un classico questo libro di Pier Vittorio Tondelli, che ha fatto anche altre cose, però Altri libertini mi sembra un quadro riuscitissimo del suo contemporaneo, che erano appunto gli anni tra il 70 e l'80 del secolo scorso. E io incontrai Pier Vittorio Tondelli al DAMS di Bologna, discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, come sapete DAMS in sigla, e gli chiesi la cortesia lo implorai di scrivere un testo per canzoni. Lui rispose molto onestamente che non aveva mai scritto per canzoni, non aveva mai fatto testi per... ma il sottoscritto Roberto Ficantoni, detto il Trapano, per la sua costanza nel rompere le scatole, riuscì a convincerlo, tanto che mi dette la prima stesura di Share, a cui ho aggiunto delle strofe, e lui aveva trovato i ritornelli, no? Share sopra nevi morbide, io poi ho fatto il ritornello, scusate, no, io ho fatto le strofe e ho aggiunto a mia volta un po' di strofe, quindi anche lì sono intervenuto, come già in Però Quasi, nella canzone Però Quasi, anche lì in Share ho cercato di rendere la cosa metricamente canzone, metricamente percorribile come canzone. Share ti piace? A me vi piace? Sì, ci è piaciuta molto ed è proprio in tema con il periodo che andremo a vivere adesso prossimamente con le vacanze di Natale. Chi non va a sciare? Esatto, chi non va a sciare, grazie per aver simulato entusiasmo e partecipazione. Yeah. Benissimo, allora ci ascoltiamo questo pezzo, Share, Ficantoni Band, da un album che si intitola Dinamismi Plastici. Settimana bianca, sciare finché non sei troppo stanca. She Blu Radio Veneto. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Secondo me questa va proprio bene radiofonicamente parlando, ha un bel ritmo, è un testo assolutamente divertente. È accattivante. Accattivante, sì. Freak Antoni con noi alle Mostacci per la presentazione di Però Quasi, questo disco con le famose 5 tracce, e mentre ci siamo assaporati un qualcosa che arriva dalla Freak Antoni Band, abbiamo già descritto appieno i personaggi prima, Dinamismi Plastici si intitola quest'album del 2010 se non vado errando. Bene, allora, oltre che sciare sono da segnalare anche le canzoni Il Governo, La Mia Banca è Indifferente. Per fare un po' il verso a quello slogan che andava di moda fino a qualche tempo fa, la mia banca è differente. E poi... qui ti interrompo, sì? Per invitarti ad uno sbilanciamento pericoloso. Sì? Attento perché il mega direttore ti ascolta, sì? Ci ascolta. Qual è il tuo punto di vista rispetto a questo slogan? La mia banca è indifferente, in vero slogan abbastanza, come dire, birichino, insinuante. A questo non ti saprei rispondere. Ah, benissimo. No, non lavori in banca, comodo, diciamo. Però così, eh? Sì, no, è troppo comodo, effettivamente. E poi siamo noi che facciamo le domande. Scusa. Vabbè, sì. Allora, no, questo comunque, fino all'arrivo, sì, di Freak Antoni. Lo so, ma lo so. C'è un post Freak Antoni, un pre Freak Antoni e un post Freak Antoni su queste frequenze. Il mega colossal Freak Antoni docet. Il megalosauro, eccolo qua. Il megalosauro dell'avanguardia. Bene, sbilanciati, allora, fratello, certo. Sbilanciati. Bene, allora, Però Quasi si intitola l'album. Che peraltro ti è piaciuto, sì, tantissimo. Sbilanciati. Sì, ci è piaciuto moltissimo. Ci sono 5 tracce davvero interessanti. Avremo modo di sentirne ancora qualcuna. Però prima direi di sbilanciarmi invitandovi a fare qualcosa dal vivo. Di molto compromettente. Sì, ad esempio c'è una canzone che parla della sfortuna. Sì, sì, devi sapere che a me è capitato di poter scrivere anche libri ai voi, che forse qualcuno di voi li ha letti. Per esempio un libro all'inizio degli anni Ottanta intitolato Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti, era molto ironico il titolo, quindi non offendetevi perché era assolutamente autocritico ed autoironico. Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti portava, pubblicato dall'editore Feltrinelli, tanto per non far nomi né pubblicità, portava sulla copertina due fascette, una in linea col mio grande insuccesso in 35 anni conclamato, e che appunto recitava 100.000 copie ancora invendute, e l'altra fascetta portava stampata la frase eponima, come dire, la frase principale del testo, che è la fortuna ci vede benissimo, anzi no, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. Sfiga o sfortuna, che dir si voglia, oppure se preferite, la fortuna è una dea bendata ma la sfortuna sa benissimo dove colpire anche al buio. E devo dire che la cosa poi mi ha portato malissimo, infatti la sfortuna si è vendicata nei miei confronti e mi ha procurato tutta una serie di disavventure che ho riunito in questo haiku o haiku, che è una formula poetica giapponese che consta di 3, massimo 4 strofe, dove il poeta solitamente esprime i suoi sentimenti nei confronti dell'ambiente circostante, ambiente fisico e atmosferico. Insomma, è una metafora, si rispecchia metaforicamente, rispecchia il proprio animo nell'ambiente circostante. E noi abbiamo voluto allargare il concetto, la Mostacci e il sottoscritto. Uso questa formula perché un tempo dicevo la Mostacci ed io, intendendo e me stesso, ma vedevo alcune persone genuflettersi davanti al pianoforte. Sì. E allora ho preferito la formula al posto di Mostacci ed io, la Mostacci e il sottoscritto, usando la Première Gnossienne di Erik Satie. Come è stato detto giustamente, tutto il lavoro di Erik Satie, genio a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, iniziatore della musica contemporanea, è diviso in due grandi categorie, è diviso in due grandi parti, le Gnossienne e le Gymnopédies, che sono due neologismi, perché il maestro Erik Satie amava giocare anche con le parole. Questa è la Première Gnossienne di Erik Satie, eseguita al pianoforte da Alessandra Mostacci. Io declamerò Haiku della sfiga o sfortuna che dir si voglia. La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo e spesso prende la mira anche al buio. Una volta toccato il fondo non puoi che risalire, a me invece capita di cominciare a scavare. Quando tutto va storto, se qualcosa tira dritto, quel qualcosa spesso è un tir. Se la vita ti sorride, ha una paresi. Attento, se la vita ti sorride, spesso ha una paresi. Se hai sedere, o meglio, se hai culo, la sfiga è lì che te lo guarda. Un uomo fece un viaggio in aeroplano, sfortunatamente cadde fuori, fortunatamente aveva indosso un paracadute, ma sfortunatamente non si aprì. Fortunatamente c'era un pagliaio sotto di lui, sfortunatamente ne sporgeva un forcone. Fortunatamente evitò il forcone, ma sfortunatamente mancò il pagliaio. E questa è sfiga o sfortuna che dir si voglia. Se sei cieco, ridi con la bocca. Se sei muto, ridi con gli occhi. Se sei cieco e muto, c'è ben poco da ridere. Questo per ricordarci, anche se non ce n'è bisogno, che la vita spesso è crudele. L'esistenza colpisce basso, sotto la cintura. A volte la vita è molto dura e non risparmia tragedie né dispiaceri ad alcuno, per cui non possiamo né vogliamo nasconderci i colmi della cattiveria. I tre colmi della cattiveria. Il colmo della cattiveria numero uno: dire a un monco, tu sei un uomo di polso. Il colmo della crudeltà numero due: chiedere a un cieco se crede all'amore a prima vista. E infine il colmo della crudeltà numero tre: il terzo ed ultimo colmo della cattiveria, dire a uno stitico: dai, su, non fare lo stronzo. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ancora Blu Radio Veneto, Rock Wave Live, sempre Flavio Bilato, Maurizio Calzavara, Frick Antoni e Ale Mostacci. Ma Ale, tu mentre suoni, come fai a trattenerti? Va bene che ormai magari conosci ormai la storia, quindi avrei voluto vederti le prime volte a trattare questi argomenti così falsamente seri, nel senso ma che poi... Ma ancora scappa ogni tanto, facciamo il signore dei Tarzanelli, per esempio. Sì, fantastica anche quel pezzo. Ma Frick è serissimo, sì, cioè, assolutamente. Anch'io, se è no, serissimo. Il gioco, no? È serissimo. Certo. Poi, proprio... Pianista, poi soprattutto deve essere seria, elegante. Sì, sì, eh beh, certo, pianista classica. Inappuntabile. Ragazzi, voi sapete che ridendo e scherzando, voi vi state giocando il posto di lavoro perché il mega iper extra direttore ha ascoltato e quindi ci bacchetterà tutti quanti. Ma speriamo di no, che abbia vissuto con noi questa serata in maniera simpatica. È una radio libera, esatto. Come si usava una volta. Esatto, e allora sfatiamo. Facciamo i Tarzanelli. Esatto, ci andiamo giù pesanti. Pesanti, aspettavamo solo un cenno di ribellione. Sì, vedo già qualcuno vostra. Con le forbici che sta arrivando per tagliarci i fili. Esatto. Ecco, benissimo. Vero. Allora tu Roberto, parlavi prima di un libro, che era... Di enorme insuccesso commerciale. Di enorme insuccesso che ti vedeva comunque non come quel demenziale popolare degli Schiantos, ma come un preparatissimo scrittore con una grande cultura. Una grande cultura che ha voluto, dare ancora sfogo scrivendo un altro bel libro, recente peraltro, Non c'è gusto in Italia ad essere dementi, uscito per la Pendragon, forse senza fare pubblicità naturalmente, perché la Feltrinelli... No, la Feltrinelli adesso è assolutamente irraggiungibile, nel senso che io conoscevo Carlo Feltrinelli, del quale ero moderatamente amico, moderatamente perché ci si vedeva poco. Per esempio, posso sbisciarvi il fatto... che ho potuto constatare il suo grande amore per Bob Dylan, ecco, l'erede dell'impero Feltrinelli, il figlio di Inge, ed è un grande appassionato di Bob Dylan. Insomma, parlavamo di Bob Dylan, di musica, di tante altre cose. Conoscevo direttori e direttrici di ogni settore della Feltrinelli. Adesso, quando telefono all'editore Feltrinelli, mi parlano delle segreterie telefoniche e delle segretarie che mi dicono: ma non so, lei chi, come, arrivederci, la saluto, grazie per aver chiamato. E quindi io non riesco più a parlare con nessuno. Dall'editore Feltrinelli chiedo scusa, spenga vuole. Esatto, premere 1 per parlare con il capo ufficio, premere 2 per non parlare col capo ufficio, premere 3 per evitare il capo ufficio, premere 4 per prenderlo sotto, per azzoppare il capo ufficio. E così, allora io così molto più tranquillamente ho incontrato un editore che è tra l'altro il nipote del grande poeta amico di Pasolini, che è Roberto Roversi di Bologna, e lui si chiama Antonio Bagnoli e dirige questa piccola casa editrice molto però agguerrita, molto determinata, fatta da persone che amano davvero i libri. Pensate, oggigiorno c'è chi ancora ama la carta stampata, incredibile, ma vero. Nonostante ci siano questi ebook che vengono spesso pubblicizzati, però diciamo... Avere il libro, poterlo sfogliare ancora al suo vero fascino. Ti sei tradito anche sì. Tu, anche tu sei un amante del libro, sì, confessalo. Certo che lo confesso. Confessalo. Anche del vinile è un amante lui. Anche del vinile, lo so, anche noi. Libro e vinile sono la stessa cosa, secondo me. Cosa dici, Frick? No, no, è vero, verissimo, verissimo. Però, ahimè, questo ci date inevitabilmente. Ma chi l'ha detto che esperto in qualche modo, cioè, insomma, uomo d'esperienza, insomma... anziano sia negativo, non è detto, cioè che l'esperienza passata vada conservata, secondo me è positivo ed è un dovere. Poi ben vengano le nuove tecnologie, se alleviano sforzi, fatiche e superano ostacoli, però ma non devono uccidere la creatività. Certo, però insomma io rispetto ancora molto il libro e anche il fatto che, non so, alcuni procedimenti siano a computeristici, alfa privativo, nel senso di non abbiano la necessità di tutta questa tecnologia, che va benissimo ma che non deve essere totalizzante. Quando poi non so, mi viene in mente una vignetta del fumettista Stefano Disegni, no? Dove c'era un ragazzo giovane nella sua cameretta pieno di strumenti elettronici, diceva: allora mi sono fatto il video, la tastiera, il modem, ho il fax, adesso però cosa dico? Silenzio, no? Adesso però non ho niente da dire. Ecco, voglio dire, se una persona ha delle urgenze da esprimere, come delle urgenze da comunicare, come successe agli Skiantos, che sono nati proprio nel 75-77, quando la voglia di comunicare, la voglia di sperimentare un rock e una musica diversa dal quel tipo di pop molto paludato, molto vecchio che c'era allora, quando l'urgenza di esprimersi è davvero forte, conta quella, no? Hanno importanza le cose che tu vuoi comunicare, la sostanza delle cose che tu vuoi comunicare. Se poi c'è un mezzo più elastico, quale il computer e le tecnologie moderne, ben venga. Però poi la sostanza ci deve essere, quindi allora, sono d'accordo. Sì, ricordiamo allora, uscito per Pendragon, Non c'è gusto in Italia ad essere dementi, col sottotitolo Ma noi continuiamo a provarci lo stesso, Roberto Fricantoni. E c'è una dedica molto importante all'interno del libro, dedicato a una pianista concertista che tu ami molto, Frick, e nel corso della tua ultima esperienza musicale ti ha dato veramente molto, quindi vogliamo ricordarla e salutarla, Aleksandra Mostachova. Ecco. Sì. Bene, che sicuramente ci sta ascoltando. Sì, infatti, a cui devo molto, anche perché davvero mi ha insegnato, ha avuto la pazienza di insegnarmi molte cose nuove sull'intonazione, darmi i primi rudimenti di armonia e di melodia. E ha poi... anche regalato dei libri di solfeggio fumetti. È vero. Con il topolino. Ah. Il topolino che dopo e mesi il formaggio. O mesi sono spariti, anche perché il solfeggio è piuttosto noioso, è fondamentale per capire i valori delle note e lo scandire dei tempi, però ragazzi è bello noioso il solfeggio, ma va fatto. A tutti i musicisti in erba che ci stanno ascoltando, non il solfeggio va fatto, solfeggio. E non buttate i libri di solfeggio, ahimè anche quelli sono importanti. Ma oggi continuiamo a parlare di libri, sì. Ci sarà chissà quale prontuario, no? per apprendere il solfeggio su ogni computer, no? Su ogni programma di computer, immagino, no? Che anche quello sarà la nuova via per imparare il valore delle note e lo scandire del tempo, insomma. E quindi immagino che sul computer si riesca ad ovviare a questa necessità, perché il solfeggio, ahimè, è necessario, non c'è nulla da fare. Bene, stavo sfogliando questo libro davvero interessante e mi sono soffermato su quelle che sono le caccole di saggezza, un po' un contraltare di quelle che sono le perle di saggezza, e poi ci sono molti altri capitoli e anche parti importanti di quelle che sono le canzoni, oppure quelle, le parti recitate che fai insieme alla Ale. Sì, sì, ci sono anche molti testi inediti che ho pubblicato nella speranza che qualche giovane musicista, uomo o donna, insomma, qualche giovane o giovinetta innamorata della musica possa musicarle insieme alla Mostacci. Fino adesso devo dire che Alessandra Mostacci rimane un punto di riferimento, forse l'unica che riesca a sopportare quei testi e a dare loro un vestito musicale. Però l'idea era anche quella di offrire dei testi per provare, per fare tentativi di musica, insomma, per vestire musicalmente queste parole. E ha dato un nuovo vestito musicale anche a quella canzone di qualche tempo fa che suona come Sono un ribelle mamma. Sì. Vogliamo ascoltarla? Volentieri. Bene. Con entusiasmo. Ma la canti tu però? Sì, va bene, allora ci penso io. D'accordo. Me ne occupo, pronto? Me ne occupo. Dal vivo? Certo. Dal vivo, live? Sì, live, sì, live, qui live. Ai microfoni di Blu Radio Veneto? Ma certo. Accidenti. Mi alzo in piedi allora e mi metto sull'attenti. Bene. Per radio, per Blu Radio Veneto. Pronto? Passami la mamma, lo so che è ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino, avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente, no. Guarda mamma, non mi è successo niente, però stanotte non torno lì a dormire. No mamma, resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male, no. Dormo fuori e non farmela pesare. C'è un posto qui a casa degli amici, parla forte, non capisco cosa dici. Sono ribelle, mamma, vai a letto, non star sveglia nella stanza. Sono ribelle, mamma, dai vai a letto, non star sveglia nella stanza. Vediamo, torna pure a letto, domani arrivo, ok, te lo prometto. E per favore stira la maglietta, c'è un concerto, mi serve quella rotta. Ricorda di comprarmi dei calzini, fai mettere le borchie ai pantaloni. Ho il pullover e la giacca di pelle, non ho freddo e sono un ribelle. E va bene, non ho niente nella testa, può anche darsi, però adesso basta. Sì mamma, basta, basta, sono un ribelle, l'ho deciso. E non mi importa, sai, di essere capito. Sono un ribelle, mamma, e vai a letto, non star sveglia nella stanza, mamma. Sono un ribelle, mamma, dai vai a letto, non star sveglia nella stanza. Sono un ribelle, mamma, e vai a letto, non star sveglia nella stanza. Sono un ribelle, mamma. Vai a letto, non star sveglia nella stanza. Mamma, mamma, come dirtelo? Oramai ho deciso. Mamma, rassegnati. Prima di arrivare qui a Blu Radio Veneto ero un giovane morigerato, timoroso. Adesso sono un ribelle, mamma. È stata Padova a cambiarmi. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Sempre all'interno di Blu Radio Veneto, nella programmazione serale di Rock Wave dal vivo, Fricantoni con Ale Mostacci con Sono un ribelle mamma, un pezzo di qualche tempo fa, riveduto e corretto appunto da Ale Mostacci per proporlo in una chiave diversa, un falso ribelle, quello descritto all'interno di questa canzone. Chiama la mamma per dire che si ferma fuori, ma poi gli ricorda che ci sono indumenti. È lui. Io. Io. Ma no, è l'italiano medio, è il giovane ragazzo medio. Dai, è il classico figlio di famiglia medio italiano che fino a 30 anni vive in casa con la mamma e il papà, con poi i genitori. A 35 anni finisce in garage perché nessuno più lo vuole, esatto. E finalmente si decide alla carriera solista. Esatto, no? sì, questa cosa sembra un po' autobiografica, ma non è così, lo posso assicurare. Non è così. E lo può assicurare anche il mio Paperotto. L'hai cantato con grande trasporto, Frick, ti sei messo in piedi perché dovevi dare un po' di pathos, pathos quello giusto, quello che serve. Bisogna, pathos da ribelle. Sì, grazie per averlo notato, anche per, era impossibile che ti sfuggissi, ti sfuggisse questa cosa, a meno che tu non fossi addormentato e ti avrei capito, perché essendo Fricantoni un po' prolisso, tanto prolisso che procura il prolasso a chi l'ascolta, avrei benissimo potuto accettare anche la tua sonnolenza. No, in effetti era per spingere un po' più sul diaframma, è una canzone, sembra così innocua, invece è una canzone dove quando va sulle note acute, sulle note alte, bisogna spingere parecchio sul diaframma ed è un pochino faticosa, no, è abbordabile ma faticosa. Insomma, io che ho cantato romanze in tutti i teatri del mondo, è facile, sì, per me in tutti i teatri d'Italia, che dico del mondo, d'Europa, ma che dico d'Europa, d'Italia, isole comprese, devo dire di non avere difficoltà, però è un pochino faticosa, scherzo, è un po' faticosa, anche se l'arrangiamento della Mostacci secondo me l'ha resa più poetica rispetto all'originale rocchettaro. È una cavalcata, sì. Secondo me l'arrangiamento dell'Alessandra. Sì, senza, adesso io non vorrei dare l'idea di abbiurare o di disconnettere, di disconoscere, scusate, sono già disconnesso io, ma di disconoscere e di così abbiurare il rock, assolutamente no. E non è, insomma, non è quello che vorrei esprimere, anzi io continuo ad essere un rockettaro punk e naif, però devo dire che in questo caso apprezzo molto l'effetto poetico dell'arrangiamento della Mostacci. Ma tu hai cominciato, devo dirlo, a proposito di rock, a proposito di rock, tu tanti anni fa hai cominciato con una tesi di laurea sui Beatles. Come fai a saperlo? L'ho letto. E poi è stato pubblicato anche un libro, a Bologna ancora se ne parla di questo. Una tesi di laurea sui Beatles. Il viaggio dei cuori solitari, più bello, sì, di così. Era il 76, 76. Io chiesi al mio mentore, al mio nome tutelare, al mio insegnante di riferimento al DAMS, che che era Gianni Celati, lo scrittore Gianni Celati, che è insomma, che è un genio e che mi ha insegnato tante cose, per esempio che la cultura non è solo una faccenda di livelli alti, no? Di conoscenze articolate, frutte di tante sedimentazioni di saperi, no? Ma è anche se, e soprattutto approfondire le cose che più ti piacciono, le tue passioni, no? E io presentai a lui, che era l'insegnante del DAMS responsabile del corso di lingua e letteratura anglo-americana, presentai una richiesta per una tesi di laurea su Lewis Carroll, l'autore di Alice nel Paese delle Meraviglie, un matematico inglese che si dilettava di fotografia e di racconti per l'infanzia. Devo dire che lui mi disse: ma scusa, hai risaputa la tua passione per i Beatles? È arcinota in tutta la facoltà, anche perché tu fai due scatole così a tutti. Questo era il sottotesto, era il messaggio non troppo subliminale sotteso alla cosa. E perché non fai una tesi sui Beatles? E io mi ricordo ancora che come uno scemo gli dissi: ma si può, nel senso che avevo della cosiddetta cultura universitaria, della cultura in generale, un'immagine molto snob, molto stereotipata, molto classica e molto rigida, no? La cultura come accumulo di sapere anche nozionistico. E lui invece mi ha fatto capire con questa battuta e poi con successivi insegnamenti, io ho triennalizzato, ho quadriennalizzato il suo corso di lingua e letteratura inglese, e devo dire che ho imparato appunto che cultura è approfondire tutto ciò che ami, quelli che sono i tuoi interessi e le tue passioni. C'è una nota di colore sullo scrittore insegnante Gianni Celati, devo dire che adesso vive a Birmingham e insegna in una università inglese dopo aver vinto il concorso, e sappiamo che là, insomma, almeno così si dice, non funzionano tanto le raccomandazioni, ma il merito, e lui ha vinto questo concorso sbaragliando tutti gli insegnanti di madrelingua. Lui, che è italiano, insegna agli inglesi la lingua e la letteratura anglosassone. La cosa mi sembra notevole. Benissimo, tra le tue varie attività, Frick, sappiamo che fai parte anche di un collegio di patafisica, un nome che sentiamo così, così quasi, però, ecco, sì, senso, però si, sente poco parlare di patafisica. Sì, la patafisica è la scienza delle soluzioni immaginarie ed è naturalmente un delirio che mi appaga tantissimo. Della patafisica però vi parlerò in un altro momento, perché parlando di patafisica mi è venuta la necessità di andare subito alla toilette e devo assolutamente correre, scusate. In questo caso patafisiologica, ecco qua. Benissimo, allora mentre noi aspettiamo Frick Antoni che ritorna... Possiamo sentire quasi tutti i musicisti? Quasi tutti i musicisti, che però non ce l'ho con me in questo momento... E direi che potremmo far ascoltare un altro pezzo. Facciamo ascoltare quello di Laura Bono, visto che ci siamo, e quindi lo inseriamo, visto che è il terzo personaggio all'interno del disco, appunto, che si intitola Però quasi. Lo facciamo ascoltare, ecco qua il tempo di inserire la traccia numero 3, e quindi lo facciamo partire immediatamente. Tutti i muri manchi un mattone, tutte le viti senza un bullone, la nave vada controcorrente e ad ogni bimbo gli manchi un dente, che il maestro sia ripetente, che ogni buono diventi prepotente, che alle scarpe gli manchi un tacco e sulla scacchiera no, non ci sia scacco. Ma mi sei mancato, ho sprecato già tutto il mio fiato, se sapessi quanto ti ho cercato, barcollando isolata nel vuoto, spietato. Dove sei? Ma dove sei? Sei, sei, sei! Dove diavolo sei? Che all'occhiale manchi una lente, che ogni requiem sia divertente, ogni automobile sia senza ruota, e ad ogni genio la testa vuota, che il manicomio sia senza un matto, il rapimento così senza riscatto, che a tutti i quadri manchi un colore, che poi si ami senza dolore. Ma mi sei mancato, ho sprecato già tutto il mio fiato, se sapessi quanto ti ho cercato, come un naufrago perso nel vuoto. Mi sei mancata, se sapessi quanto ti ho cercata, inseguita, desiderata, come un naufrago perso già tutto il mio fiato. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ancora all'interno di Rock Wave, ancora all'interno di Blu Radio Veneto, sempre con Fricantoni e Ale Mostacci, la presentazione del loro disco Però Quasi, con featuring Luca Carboni, non solo, c'è anche J-Ax, e in questa canzone che si intitola Dove sei abbiamo la voce di Laura Bono, poi ci sono altri due pezzi, quindi sono Un ribelle mamma che abbiamo ascoltato prima nella versione dedicata a Blu Radio Veneto, soprattutto nella parte finale che terremo preziosissima per noi, e poi ancora Lettera alla madre di un Mozart moderno che sta tornando dalla Germania. Mentre molto aspettiamo Fricantoni, un piccolo commento da parte di Ale per quanto riguarda questi pezzi che ti sei trovata Io mi sono adattata molto ai cantanti che dovevano cantarle insieme a Frick, anche come arrangiamento, quindi con J-Ax mi sono mossa in un modo E parliamo dell'arrangiamento che hai fatto per Laura, molto Massive Attack all'inizio, poi la cosa si è un po' ampliata, perché Laura ha una bella voce, giustamente tu dicevi, che non va oltre, è una voce che si continua ad allargarsi, ma sempre in una certa maniera. Ma anche perché la tonalità non era adatta a lei, certo. Infatti si era un po' lamentata, ma invece secondo me è venuta molto bene, per questo è molto delicata, sì. Perché non c'è questo cantato all'italiana per forza urlato, a me è piaciuta molto. E Frick cosa ha detto, questo connubio tra la voce sua e la voce di Laura? Ma Frick si adatta sempre a tutti, non è difficile, è sempre aperto a nuove soluzioni. Quindi. Ma l'idea dell'arrangiamento avevi già in mente prima di partire? Poi si fida al 100% di me, di te, perfettamente. Per me è facile. Quindi non ci sono problemi. Sì, e quindi è stato un incontro che è avvenuto qualche tempo fa, quasi parallelamente a quella che era la sua esperienza, diciamo, degli Schiantos, e quindi vi siete conosciuti nel 2004, sì, no? 2003, quando avete, 2003, nel 2003, sì. Dove avete cominciato con... Era il contemporaneo 1 e 2, che sono due CD con musica contemporanea e poesia ironica, che portiamo in giro anche nel live. E poi piano piano, quando si è un po' chiusa la, la parentesi Schiantos, abbiamo pensato di aprire una band rock, perché comunque per lui è importante, secondo me. Cioè, il DNA c'è sempre. In Ironi contemporaneo comunque ci sono varie riprese di... di pezzi, diciamo, di altri artisti, di altri pianisti, sì, che hanno... Pianista, io eseguo tutti i pezzi, però ho chiesto ad altri amici compositori, anche perché ancora allora non componevo, e dopo è stato Frick a spingermi un po'. E vedo che all'interno di Ironi Contemporaneo, il numero 2, partecipano, diciamo, come nome e come, diciamo, compositori, artisti famosi, quali Ligeti, che abbiamo nominato già prima, poi c'è ancora Ludovico Einaudi con Le Onde a sottofondo di quello che è un pezzo leggero. Potremmo, si chiama così. Se vuoi. Potremmo e farlo, no? Ma Frica adesso è ancora... è ancora di là. Vabbè, si sta soffermando con i suoi fans. Esattamente. Sì. Quindi, allora, io direi, prima abbiamo nominato la canzone quasi poi tutti i musicisti. Poi finché non c'è possiamo far sentire un po' di musica. Sì. Ma parla sempre. Sì, sì, sì. Allora facciamo ascoltare quasi tutti i musicisti e intanto andiamo a vedere se ha finito a firmare gli autografi. Farei sentire invece Ligeti, sì, con Giuda l'Iscariota, la poesia che è molto divertente, secondo sì, me. Sì, benissimo. Voi ascoltiamo questa allora? Sì. Cambio al volo. Ok, mi sono girato, ho cambiato, quindi adesso ascoltiamo questa... Giuda con... No, Giuda la facciamo noi. Ah, l'ha fatta, Giuda, l'ha fatta dal vivo. Allora, sì, la dal vivo. Allora facciamo il numero 7? Esatto. Quasi tutti i musicisti? Sì, sì, sì. Momenti di faianza, cambio tutto. È tutto dal vivo, eh? Okay, tutto dal vivo. Assolutamente dal vivo. Sì. È bello così, sì. E allora vai con quasi tutti i musicisti. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Quasi tutti i musicisti sono bambini iconoclasti, permalosi ed arrivisti, in fondo sciovinisti, oltranzisti, consumisti, coltivan vizi solipsisti, allarmisti, ultrateppisti, duri, nudi, integralisti. Quasi tutti i musicisti vogliono applausi senza fischi, complimenti e pochi rischi, poi detestano tutti i fiaschi. Quasi tutti i musicisti vogliono vendere molti dischi, cocaina dopo i pasti, altrimenti sono mesti, molto mesti. Quasi tutti i musicisti, qualche volta molto tristi, poco abili affaristi, taluni anche un po' pianisti, taluni anche un po' cornisti. Poi diventano buddisti, verdi antiproibizionisti, rassegnati ex marxisti, quasi mai collezionisti. Quasi tutti i musicisti odiano tanto i giornalisti, anarchici individualisti, consumati fagottisti, consumisti, inguaribili idealisti, spietati menefreghisti, pensano sempre d'essere tosti, alcuni anche un po' alcolisti. Quasi tutti i musicisti sono viziosi e pessimisti, anche un po' materialisti e alle volte pederasti. La mattina occhi pesti, quasi sempre poco casti, ma convinti pacifisti e raramente molto onesti. Blu Radio Veneto. Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Abbiamo ascoltato quasi tutti i musicisti con, oltre al pianoforte di Ale Mostacci e alla voce di Fricantoni, anche la presenza di altra strumentazione particolare che rendeva l'atmosfera molto, molto cupa, sì. Per parlare di questi musicisti, per differenziare qualche musicista è di un tipo, qualche musicista di un altro tipo, sì, fagottisti, cornisti, iconoclasti, eccetera. Allora, Frick è ritornato tra noi, e viva Frick Antonio. Scusate l'emozione mi gioca brutti. Gli autografi che hai filmato per i tuoi fan. Ma sì, premevano. Premevano. Sì. Non volevo lasciarli così, sai, non volevo lasciarli così, come uso dire, a bocca asciutta, senza questo ambito autografo. Scherzo, non c'era nessuno, ma il direttore super mega direttore mi ha fatto un cenno così arcigno con l'indice. Sapete quando si rattrapisce l'indice in direzione della vostra persona? E questo mi ha detto: complimenti, la serata è andata straordinariamente bene, veramente un disco, un CD però quasi molto molto bello, molto interessante, ne voglio 50 copie per farlo sentire ogni 10 minuti alla radio, quindi sappiate, cari radioascoltatori, che da adesso in poi ascolterete però quasi della Fricantoni Band ogni 5 minuti, quindi... No, può essere un validissimo regalo per Natale adesso. Non volevo dirlo, grazie. Quindi, e tra altre cose, tu hai anche dedicato una canzone al Natale qualche tempo fa, no? Sì, ma ti vedo molto ben informato, complimenti. Sì, ho letto qualcosa. Sì, odio tutti, belli e brutti, anche quelli brutti e belli. No, non è vero, era una butade, in realtà era Natale è... E sottotitolo appunto Odio tutti belli e brutti, non è vero, e si tratta di uno sfogo natalizio, e anzi pre-natalizio, perché il Natale e il Capodanno, come già detto anche in un'altra canzone, non sopporto il Capodanno, mi danno sempre questa grande sensazione di solitudine, e quindi quando ci sono queste feste che tocca dire comandate, in realtà lo spirito della festa sarebbe molto diverso e anche molto importante se in qualche modo coincidesse con una riflessione, oso dire, spirituale, ma in realtà abbiamo solo delle convenzioni consumistiche, e la cosa mi fa sentire molto isolato, e ognuno forse poi sente la propria solitudine in maniera particolare. Se unissimo le solitudini durante queste feste, forse potremmo in realtà sentirci solidali tutti quanti. E allora Natale è, dove si parlava degli aspetti positivi ma anche di quelli più solitari del Natale. Sì, abbiamo fatto anche questa. Anche Luca Garboni ha fatto un pezzo simile un po' di tempo dopo. Ah sì? Sì, con quasi lo stesso titolo. Vedi, ci sono sempre corsi e ricorsi e ritorni. Devo dire che la collaborazione con Luca Garboni è saltata fuori anche perché Luca Garboni ha sempre sostenuto di aver iniziato la sua carriera musicale dopo aver visto e ascoltato concerti e dischi degli Skiantos, dopo aver visto i concerti live degli Skiantos ed aver ascoltato i vinili, come usava allora, degli Skiantos, lui si è detto: ma se ci provano questi pazzi qui, questi matti che sto vedendo e ascoltando, forse posso provarci anch'io, laddove si dimostra che da un cattivo esempio forse possono nascere a volte anche buoni risultati. Insomma, non è scontato che da cattivi esempi escano solo cattivi risultati. A volte, se la persona che affronta questi cattivi esempi, è abbastanza formata, è abbastanza coraggiosa, abbastanza saggia, forse può usare il cattivo esempio per invece trasformarlo in una direzione positiva. Volevo chiederti, Roberto, ne hai la facoltà. Grazie. Nella Fricantoni Band, il pubblico si sente ancora insultato e coccolato? No, devo dire no, che il rapporto è molto diverso. C'è un rapporto con il pubblico particolare. Il pubblico è curioso almeno in questa fase di vedere, sentire, capire che cosa fa questo strano, non me lo regalo da solo, da me, ma è l'aggettivo che spesso mi viene affibbiato, questo strano personaggio che è stato protagonista della stagione del punk rock per circa 35 anni. E io mi sono detto, dopo 35 anni, se non provo adesso a fare cose nuove, quando? Se non ora, quando? E devo dire che il pubblico è abbastanza interessato e incuriosito. Naturalmente la Fricantoni Band non applica più queste modalità di intervento spinte verso il pubblico, di rottura, queste modalità di rottura a volte estreme e feroci, come quando tirava la verdura al pubblico per costringerlo a reagire, no? Gli Scantos pensavano, c'era comunque un progetto, certo, dietro gli Scantos c'era, e come, oh sì, e come se c'era, nel senso che gli Scantos detestavano la passività del pubblico, il fatto che il pubblico fosse amorfo, no? E volevano costringere lo spettatore medio nel ruolo di colui che aspetta, da spettatore, insomma c'è anche un'affinità verbale. Sì, un'ultima cosa che ti volevo chiedere, Roberto, sì, quella volta che vi siete fatti la pasta sul palco. Sì. Ecco, come ha vissuto il pubblico? Molto male. La vostra avanguardia? Molto male, perché la gente si sentiva provocata e senza avere possibilità di parola, di intervento, o meglio, certo che esisteva la possibilità di interloquire, di rapportarsi a noi, ma erano soprattutto e soltanto insulti, poiché noi non suonavamo, cioè non facevamo quello che era previsto facessimo, quello che di solito deve fare un musicista o presunto tale quando sta sul palco, e cioè cantare e suonare. Poiché noi non davamo la quantità di musica necessaria ad assolvere la nostra funzione, la gente, il pubblico, gli spettatori si arrabbiavano, e non gli si può dar torto da un certo punto di vista. Noi volevamo fare in modo che il pubblico in effetti si arrabbiasse, ma volevamo anche rompere la tradizione dello spettacolo, cioè i canoni tipici scontati del live act, come si dice oggi, del concerto dal vivo. Volevamo, certo, fare altre cose, sottoporre il pubblico a questa fra virgolette tortura della novità, vedere cosa succede se tu presunto musicista sul palco fai altro, no? Certo. Non canti, non suoni, ma fai altro. Lo facevano anche i Sex Pistols in Inghilterra, più l'hanno fatto spesso e volentieri, tanti altri gruppi. Scusate, ci dicono dalla regia che abbiamo ancora 9 minuti, ci regalano 9 minuti dopo la mezzanotte, ma poi dobbiamo finire. Allora, un altro pezzo dal vivo che volete regalarci? So che c'è qualcosa di ironico, contemporaneo, il numero 2, e quindi potremo ascoltare con la musica di Gheorghi Ligeti quella che è quella grande performance che parla di Giuda. Sì, volentieri. Noi vorremmo in qualche modo rendere omaggio, se così si può dire, o comunque restituire un pochino di compassione nel senso di soffrire con una persona che ha fatto un grande errore. Chi non li fa, del resto Cristo ha detto appunto, chi non ha peccato scagli la prima pietra, perché dell'ambito di Cristo si tratta. Il discepolo infedele di Cristo colui che però era designato, in qualche modo era predestinato a fare la sciocchezza che ha fatto. Pare che Giuda l'Iscariota, che era un fervente, uno zelota, dunque un ebreo ortodosso, non abbia tradito, secondo scuole di pensiero storico recente, non abbia tradito Nostro Signore per 30 denari, o perlomeno la cosa è discutibile, poiché lui era ricco, proveniva da una famiglia di censo, è una famiglia ricca, benestante. Lui stesso aveva un ottimo mestiere, ben pagato, perché era funzionario dell'amministrazione romana in Palestina. Non aveva problemi di denaro, ma pare che il grosso equivoco, e sappiamo che poi i discorsi di Cristo venivano, di Gesù venivano regolarmente fraintesi, tanto che John Lennon disse: rendiamo onore a John Lennon, parola di John Lennon. Gesù era un tipo estremamente in gamba, acuto e un grande pensatore, ma i suoi discepoli forse più ottusi, e i loro travisamenti, secondo me, lo hanno completamente rovinato. Parola di John Lennon. Comunque la si pensi, certo le parabole del Cristo venivano regolarmente malinterpretate o fraintese, alcune perché erano oggettivamente di difficile interpretazione, altre quindi un pochino così faticose, altre perché per la dabbenaggine nella quale poi ognuno di noi si può riconoscere, perché nessuno di noi è certamente così acuto e così perfetto. Per la dabbenaggine di chi dei discepoli che ascoltavano. Certo è che Giuda era il discepolo più colto, era l'unico che avesse una vera cultura. Gli altri, con il massimo rispetto, erano uomini di fatica, erano pescatori, popolani che, non avendo ricchezze, non avevano potuto permettersi uno studio regolare. Pare però che Giuda abbia fatto questo tradimento malinterpretando appunto le parole del Cristo, e volendo forzare la mano a Gesù quando intendeva far intervenire l'esercito del Padre, quando Gesù parlava del Padre mio, dell'esercito del Padre mio. Credi forse tu, Giuda, che il Padre mio non potrebbe mandarmi legioni di angeli a mia difesa? Quasi a ribadire il fatto che le cose erano già predestinate. E dunque Giuda in realtà è stata anche, pur rispettando l'idea del libero arbitrio, è stato anche l'autore designato di questo tradimento. Forse gli dobbiamo qualcosa, visto che quotidianamente lo offendiamo, e visto che Giuda l'Iscariota è la persona più vilipesa di tutta la cultura occidentale. L'idea è di un poeta metropolitano torinese, Guido Catalano, e anche qui io ci ho messo il mio modesto zampino. Giuda l'Iscariota, musica di Gheorghi Ligeti. Tutta la sacra saga, Giuda l'Iscariota, quello zelota di Giuda l'Iscariota, è il mio personaggio preferito. Giuda, lasciatemelo dire, ha fatto la più grande puttanata della storia dell'uomo. Mangiare la mela. Stiamo parlando di quell'altro cretino. È stata grande vaccata, ma almeno lì o là, a seconda dei punti di vista, c'erano una donna nuda e un serpente stronzo. Ma Cristo santo, Giuda Iscariota, 30 danari che manco te li sei potuti godere, che manco te li sei goduti. Tuttavia, il problema è profondo, il problema è complesso e andrebbe discusso. Giuda, quello zelota di Giuda l'Iscariota, non aveva scelta. Giuda è stato scelto. Giuda venne scelto da qualcuno molto in alto. E se un giorno potrò mai viaggiare nel tempo, mi farò un viaggetto a ritroso all'indietro di 2000 anni o qualcosina di meno e glielo andrò a dire. Giuda, gli dirò, Giuda Iscariota, quando stasera ti invitano a cena, di che non puoi, di che non puoi assolutamente, inventati qualcosa, sparisci, al limite vai dove sai, a prostitute, ma non andare a quella cena. Giuda, guarda il labiale, non andare a quella cena. E al diavolo tutti i paradossi temporali. Al diavolo tutti i paradossi temporali. Se avessi una macchina del tempo, io glielo andrei a dire, lo avvertirei, quello zelota di Giuda l'Iscariota. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. Rock Wave Live. Ecco qua, abbiamo sconfinato la mezzanotte, ne valeva la pena. Abbiamo avuto con noi Fricantoni assieme ad Ale Mostacci per percorrere insieme quelli che sono stati i periodi caratterizzanti la musica più o meno recente, il nuovissimo lavoro Però Quasi. Fricantoni, Ale Mostacci, abbiamo anche ascoltato qualcosa della Fricantoni Band con Dinamismi Plastici, un album di qualche anno fa, e poi ancora Ironi Contemporaneo, il numero 2, ricordando anche l'esistenza di Ironi Contemporaneo numero 1, e da questo numero 2 abbiamo ascoltato questo Giuda l'Iscariota, questa storia vista da un'altra parte, diciamo. Ecco, allora, visto che abbiamo sforato, abbiamo ancora pochissimi minuti da dedicare, se non per ringraziare Roberto Fricantoni, ringraziare Are Mostacci per essere stati con noi in questa serata. No, siamo noi che ringraziamo te. Insisto, siamo noi che ringraziamo te. Dai, partiamo per una specie di commedia di convenevoli. Sì. No, siamo noi che ringraziamo no, te. No, siamo noi che dobbiamo no. ringraziare voi. No, ma dai, ti prego, insisto. Ma fammelo siamo dire. Noi. No, dai, veramente, grazie, grazie di cuore. No, grazie, un gigantesco grazie a caratteri cubitali. Grazie, grazie a Blu Radio Veneto. Grazie per trasmettere ogni 5 minuti, Però Quasi, il nostro ultimo, speriamo, diranno i radioascoltatori, sì. CD. Benissimo, l'ultimo CD per il 2012, aspettando la fine del mondo che dovrebbe avvenire tra qualche giorno. Comunque almeno ci divertiamo ascoltando le musiche di Fricantoni assieme a Ale Mostacci con il featuring di Luca Carboni, ma non solo, all'interno di questo CD formato da 5 tracce, facendo ancora un po' di pubblicità per chi vorrà essere curioso ad ascoltare questi pezzi di Ronnie Contemporaneo, ancora Dinamismi Plastici della Fricantoni Band, e poi naturalmente in tutte le migliori librerie. Ricordiamo anche, non c'è gusto in Italia ad essere dementi, così per vivere anche un po' la lettura in maniera ironica, come Fricantone nel corso degli anni ci ha abituato. Quindi ancora grazie per essere stati con noi. Grazie davvero a voi, grazie a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto e per la loro pazienza, da Fricantoni e da Alessandro. Ale Mostacci. Benissimo, grazie. Allora possiamo chiudere, lasciamo la linea a quelli di Effetto Notte in Italia, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. Il solito grande caloroso ciao, quindi Rock Wave può finire. Ciao a tutti, grazie, buona serata ancora. Ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao. Ciao.